fondo, dove ti troverà per terra campare. È tutto qui, vedi, la tua parola non mi servirà. Puoi volare verso il cielo, avere il cuore più leggero, delle pare faccia meno. Ognuno è messo al mondo, ognuno è fatto di carne, ognuno per gli altri è sfondo, ognuno è uomo, è arte, ognuno vive il sonno perso dentro un sogno. Senti una voce forte che ti chiama, seguila fino alle porte del Nirvana. Sto per toccare il fondo, nell'oro più profondo, dove ti troverò per terra cappa, per terra cappa. Per terra cappa. Regalami gioie, di tutto il resto non mi importerà. Godo se mi fai le foto, quanto è bello stare al gioco, chiudi gli occhi e perdi il fuoco. Ognuno vive con gli altri, nessuno vive per gli altri. Tanta gente ti ammira, allora tanta gente ti invidia, e l'invidia causa perfidia. Se ti aspetti il male allora arriva. Senti una voce forte che ti chiama, seguila fino alle porte del Nirvana. Ascolto tuo flusso nella notte confessa, non restare connesso. Chi ha potere ti vuole verso, lei mi chiama che vuole sesso, lui mi chiama che vuole sesso, alla base di tutto. E siamo qui, nell'universo, domani è qui, domani è adesso. E se arrivo sul fondo, arrivo da guardia, da Marti, prima scopro chi sono, prima capisco gli altri. Sto per toccare il fondo, nell'oro più profondo, dove ti troverò per terra cappa, per terra cappa, per terra cappa. E questi erano Sam & Stan con K.O. e ce li abbiamo in collegamento proprio al telefono. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, eccoci qua! Che bello sentirvi! Come state? Domanda forse banale, ma neanche troppo. Ma stiamo bene, di questi tempi non è così banale, purtroppo, però stiamo bene, siamo molto contenti della release del nuovo singolo, siamo... Gasati. Ancora lavori in corso, ma gasati. Bene, molto bene, esatto. Noi parleremo del vostro nuovo singolo che è uscito il 21 gennaio, che si chiama Champagne. Ed è interessante perché parla di un party, quasi come fossimo in un club avveniristico, che di questi tempi parlare di feste in casa, feste con amici, eccetera, è insomma un po' straniante. Però raccontateci un po' appunto il vostro singolo, che in cosa differisce rispetto alla lavorazione dei vostri lavori precedenti. Ma guarda, in questo periodo in realtà secondo noi serve appunto ascoltare qualcosa che ti riporti almeno con l'immaginazione altrove, no? È importante automotivarsi e cercare un po' delle vie di fuga, che poi in realtà questo è proprio il vero e proprio concept del disco, che uscirà a breve, che annunceremo proprio in questi giorni. Per cui sì, l'obiettivo era quello di far divertire, che è una cosa che spesso viene tralasciata. Magari sono dei festeggiamenti un po' anticipati, però insomma noi ci portiamo avanti. Beh, fate bene, trasmettete positività. Esatto. E come dicevate appunto, è il singolo che precede il concept album di prossima uscita, che sarà il vostro primo disco completamente in italiano. Esatto, abbiamo in sostanza in italiano appunto un KO che avete che abbiamo presentato anche qua, mi ricordo. Sì. Assolutamente, perché Sam e Stan sono già stati intervistati l'anno scorso sempre per la nostra radio, ce li ricordiamo bene e infatti io questa canzone mi ricordo me l'ascoltavo tantissimo, ma tra poco lo diciamo ai nostri ascoltatori, appunto, sentiremo il vostro singolo Champagne. Ma visto che prima abbiamo parlato così, una domanda tra parentesi, abbiamo parlato di America, della cerimonia di insediamento appunto di Biden, di Lady Gaga che aveva cantato l'inno, non so se avete visto, sì, come sì. Parlateci, diteci un po' la vostra, cosa ne pensate di Lady Gaga o di altri che si sono esibiti? Lady Gaga è la rappresentazione del segno dell'ariete, perché ovviamente è un'ariete pura e quindi insomma è sempre molto scenografica, molto teatrale, molto teatrale, no? E l'è stata anche in questa occasione. Bello, che c'è Riccardo che ariete anche lui, esatto. E in questo momento sta facendo... Anche lui teatrale. In effetti un po' sì. Ma come? Vabbè, ok. Scopro cose oggi. E quindi sì, non ci ha assolutamente delusi, era quello che un po' ci aspettavamo. Bene, bene, e infatti immaginavamo una risposta del genere. Ragazzi, ma voi appunto, molti vi conoscono grazie a X Factor, eccetera, eccetera, ma in questo periodo che abbiamo vissuto di pandemia, che stiamo ancora vivendo purtroppo, come ve la siete cavata? Appunto, avete lavorato, avete fatto uscire questo nuovo singolo, ma a livello proprio di lavoratori dello spettacolo, noi che di Radio Città Fujiko stiamo portando avanti questa inchiesta che si chiama Please Don't Stop the Music, diteci un po' la vostra riguardo, come avete passato questo momento, come state passando questo momento in quanto musicisti? Ma di base è stato un settore che anche vivendolo un po' sulla nostra pelle è stato un po' lasciato da parte, non considerato poco e male, e quindi noi ci siamo dati da fare con quello che ovviamente potevamo fare in questo periodo, quindi ci siamo messi a scrivere. È stata credo un'occasione forse anche per avere più tempo per concludere e confezionare il disco alla perfezione. L'abbiamo presa come un'opportunità più che come una disgrazia. E cioè, tornando al punto appunto di evadere dalla realtà, sì. È stato sì l'unico modo per reagire, perché il primo mese era comunque una novità per tutti, è stata vissuta davvero tanto tanto male. Noi comunque per natura ci imbocchiamo sempre le mani, che appunto toccando il fondo, arrivando KO per autocitarsi, no? Tutto per autocitarsi. È sempre comunque, cioè, bisogna sempre vedere il lato positivo delle cose, il fatto di trovarsi appunto a toccare il fondo ti deve far vedere la luce e quindi darti la motivazione per risalire sostanzialmente. Cioè, io vorrei vedere il loro mindset in generale, cioè qua ragazzi, fate dei corsi? Non è stato semplice, mamma mia, ok, no, bellissimo. Per il mindset, perché e allora, è molto raro. È molto, sì, ci viene facile pensare come sia uscita questa canzone Champagne. Esatto. Ma anche perché raga, cioè, c'è tanta gente che si deprime nel mondo della musica, no? Cioè nel senso, ce ne sono... A litri di canzoni deprimenti. Vero, vero. Anche fare la controparte, no? Però noi diciamo che il disco toccherà appunto delle, certo, dei punti molto profondi. Ci ascolterete anche quel lato, ovviamente, di noi. C'è un po' di tutto. Siamo anche contenti di essere riusciti a fare un disco molto eterogeneo in questo senso. Ok, che è la cosa più interessante. Siamo molto curiosi. Non vediamo l'ora, davvero. Premiamo. Sì. Bene, aspettiamo tutti. Ma ragazzi, vi chiedo una cosa che chiedo a ogni ospite, ormai è proprio la costante di quando sono presente, ovvero le vostre influenze musicali. In generale, le vostre influenze che hanno influenzato la vostra carriera artistica. Le maggiori influenze per questo, nell'ultimo periodo, quindi, che si sentono tanto il nuovo disco, sono della scena electropop dell'est Europa e inglese, quindi da Charlie XCX alle produzioni di A.G. Cook e ovviamente Tommy Cash. Okay. è un guru per noi anche a livello visivo, è un artista visivo pazzesco, quindi è davvero di grande ispirazione. In realtà poi noi ascoltiamo davvero di tutto, dalla Ghidera a Patti Pravo, agli MGMT a... Beh, ottimo, ottimo. Bellissimo, allora ragazzi, noi vi ringraziamo e ovviamente vi facciamo un enorme in bocca al lupo, soprattutto conoscendovi. Io spero di vedervi il prima possibile anche live, perché i concerti, ne parlavamo prima, sono la cosa che più ci manca, e immagino anche a voi. Troppo. Noi l'unica cosa che ci fa soffrire di questo release è quella di non poter presentare il disco live, anche perché essendo un concept album, live lo immaginiamo proprio come un'esperienza più che un semplice show, quindi abbiamo grandi idee ma dobbiamo aspettare un attimino ancora per poterle realizzare. Vabbè, in studio si lavora, dal live ci si diverte alla fine. Esatto. Speriamo allora che questo accada il prima possibile. Nel frattempo vi facciamo i complimenti per il lavoro che avete fatto, per la vostra positività, esatto, perché questo, esatto, ha portato a produrre cose. E brindiamo così, esatto, brindiamo con un bicchiere di champagne fittizio, perché noi purtroppo qui non possiamo avercelo, però ci ascoltiamo champagne sui 103.1 e salutiamo e ringraziamo Sam e Stan. Un bacione, ciao, grazie, ciao ragazzi, mille. Dico, grazie. Ciao. Qui è pieno di bella gente, secret party a luci spente. Parlo a vuoto, bla bla bla, di vacuità. La party non mi fotte più niente, la otra mi ha annebbiato la mente. Inutile provare a fermarmi, guarda cosa indosso, ho il futuro addosso. Nel DNA, la mia faccia da pubblicità, le mie storie sono cinema, faccio lo shampoo solo con champagne. Oggi sono una celebrità, una materia all'università, ho lo sguardo di Melania Trump, faccio lo shampoo solo con champagne. Quei sogni che ho fatto per anni, ti sveglio che adesso non ne voglio più. Mi sveglio pazzesco sul letto, massaggi, e non mi alzo più. Il party non mi fotte più niente, la vodka mi ha annebbiato la mente. Inutile provare a fermarmi, guarda cosa indosso, ho il futuro addosso. Faccia da pubblicità, le mie storie sono cinema, faccio lo shampoo solo con champagne. Oggi sono una celebrità, una materia all'università, ho lo sguardo di Melania Trump, faccio lo shampoo solo con champagne. E tutti quei sogni che